Bentrovati a Notte Tempo 7 Minutes, io sono Livia Napolitano, anche questa settimana la nostra pillola musicale, l'insegna della musica creativa e indipendente, ci farà scoprire dei nuovi interessanti suoni, quelli del blues. Il blues di Miriam Swanson, con questo primo pezzo che state in sottofondo ascoltando, che è Good Rocking. E adesso passiamo a un altro brano, prima di salutarvi e di darvi appuntamento alla prossima settimana, Grit and Gross, ensaio sempre di Miriam Swanson. Buon ascolto! Because you know I love you, baby. Oh, you know I love you. me he hecho un lío, me voy a estar cambiando de jabón a piano y no me dan.